Il quadro è quello di sempre, quello che davvero ogni mese ci ripetiamo, ovvero una forte espansione delle attivazioni nette, quindi delle assunzioni al netto delle cessazioni di lavoro a tempo determinato, che sostanzialmente sono più del 90% ormai, e sono appunto circa poco più che 90.000, a cui si aggiungono 80.000 circa lavori in somministrazione, quindi il nuovo tema di cui ci siamo occupati, del lavoro in affitto, no? Che poi appunto viene dato in missione ogni tot per qualche ora alla settimana, mentre il tempo indeterminato, senza contare le trasformazioni di contratti a termine o in apprendistato in contratti a tempo indeterminato, non supera le 5.000 unità, quindi tra gennaio e febbraio 2018. Tra l'altro, un dato, quest'anno, questo mese il rapporto dell'INPS è abbastanza scarno, cioè non ci sono i dettagli per retribuzione e zona geografica, mancano i dettagli sugli incentivi utilizzati, anche perché lì quando andiamo a affrontare il dato sulle 70.000 circa, se non ricordo bene i numeri, scusate, sono appena arrivato, quindi ne ho poco memorizzati, delle trasformazioni, ricordiamoci che quest'anno sono stati reintrodotti gli sgravi pieni per determinate categorie, quindi il sud, i giovani e così via, quindi ovviamente questo dopa un po' il numero dei contratti trasformati. Sì, su questo poi appunto magari ci torniamo, restando alle assunzioni e guardando la crescita comunque che c'è delle assunzioni, almeno il saldo tra assunzioni e cessazioni è positivo, però colpisce che mentre ad esempio le assunzioni a tempo indeterminato crescono dell'8,4%, le assunzioni precarie come dire vanno più veloci da 2 a 10 volte, l'apprendistato cresce del 23,2%, il tempo determinato del 15,2%, la somministrazione del 26,5%, addirittura il lavoro intermittente dell'85,3%. Quindi questo può esserci utile anche a capire il trend del lavoro nel nostro paese. Sì, un lavoro che è sempre più davvero frammentato e a rotazione tra i lavoratori, perché qui parliamo appunto di contratti e non di posti lavoro, ovvero nel mese appunto di febbraio, l'ultimo censito dall'INPS, ne possiamo avere quei contratti, fanno capo effettivamente a molti meno lavoratori, e sappiamo che un contratto a termine, ma anche i contratti intermittenti, che poi sono quelli a chiamata, durano soltanto pochi giorni la settimana, quindi appunto rinnovi e nuovi contratti a cui si accede. Il dato sui contratti intermittenti, che poi sarebbero i contratti a chiamata, fondamentalmente in qualche modo getta tanta ombra su una delle dei capitoli di questo rapporto di questo mese, dove si dà il dato sui nuovi voucher e sul libretto famiglia, no, quindi presto, prestazione occasionale, voucher, che effettivamente sono stati sostituiti dal lavoro intermittente, perché appunto è un lavoro molto flessibile, è un lavoro appunto a chiamata, è un lavoro con la cui ricattabilità, perché se non accetti la chiamata per quel paio di ore non vieni richiamato e così via. Quindi si vede che, se è vero che da un lato, no, che i voucher in senso stretto sono diminuiti, ma anche lì andiamo a capire perché, la procedura completamente online di fatto scoraggia la gente ad accedermi, quando prima andare dal tabaccaio e farsi dare un paio di ticket era molto più semplice. Quindi anche lì, no, di chi sono, cioè, strumenti e chi riesce a utilizzarli, spesso non ce ne rendiamo conto, perché non è soltanto una questione di legge, anche davvero quando poi diciamo che abbiamo un tessuto imprenditoriale abbastanza scarso dal punto di vista delle competenze che invece vengono sempre richieste ai lavoratori, questi poi sono un po' i risultati o comunque dei segnali. Ecco, leggendola da un'altra prospettiva, leggendo questi dati da un'altra prospettiva, sembra quasi che gli imprenditori privati, perché questi dati riguardano il privato, in ogni caso non si fidino del tempo indeterminato a tutele crescenti del Jobs Act, comunque, se continuano a prediligere comunque forme precarie. Ma sì, perché sostanzialmente le altre forme sono talmente precarie, possono farci quello che vogliono, appunto, ricordiamoci un tessuto produttivo che è fatto per il 90% da aziende sotto i 10 dipendenti, no? Dove appunto questo lavoro usa e getta, soprattutto in una fase di deindustrializzazione, conviene comunque. Poi è vero che conviene anche dal punto di vista monetario spesso, perché da un lato gli incentivi, anche se pensiamo agli incentivi quelli post alternanza scuola lavoro, ovvero imprenditori che fanno fare, no, lo stage dell'alternanza presso le loro sedi, i loro impianti, poi se assumono il ragazzo anche a termine hanno degli incentivi, di conseguenza gli costa pochissimo. Gli incentivi per i giovani al sud valgono anche per il tempo determinato, quindi di fatto, no, è una leva che si aggiunge, che potrebbe essere simile o identica a quello del contratto a tempo indeterminato, ma in questo modo va a rafforzare di fatto questa, diciamo, questa deriva o getta dei rapporti lavoro, che però ripetiamo, cioè stanno tutti dentro questo ciclo di recupero della domanda, delle esportazioni in parte, quindi anche della produzione intermedia di quei beni che poi vanno a finire in produzioni che vengono esportate, che si fa attraverso la somministrazione. Questo per esempio è un dato, no, rispetto al ciclo economico, perché ci sono un po' più commesse in un mese piuttosto che un altro. La somministrazione, che non dà il vincolo di tenere la gente sempre dentro nonostante un contratto a termine con l'agenzia di somministrazione, può essere fatta fluttuare e variare molto più facilmente. Ecco, allora torniamo su quel dato invece delle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, perché leggendolo così sembra un dato positivo, cioè sono in aumento del 79,5%. Tu già un po' hai risposto prima, ma ti chiedo appunto di approfondire. Sì, sicuramente il dato che quest'anno, essendo stati reintrodotti molti degli sgravi, trasformare i contratti conviene alle imprese, cosa che era crollata nel 2016 e nel 2017 rispetto al 2015, dove invece avevamo impennata proprio delle trasformazioni dovute agli sgravi. Dall'altro lato, cioè, allora, il meglio di niente è, diciamo, no, lo slogan per vedere questi dati in modo positivo o ottimista. Dall'altro sappiamo che anche la trasformazione vale davvero poco ormai, perché con un contratto a tutele crescenti sappiamo benissimo che anche la Corte Costituzionale ormai dice che licenziare per una eventuale potenziale perdita di profitti è lecito, è una causa economicamente rilevante, e di conseguenza vale davvero ben poco. Ma così come il tempo indeterminato ad oggi vale ben poco, e soprattutto ritorna alla struttura produttiva italiana, perché anche lì dove, diciamo, una trasformazione può essere positiva, e poi andiamo a vedere quali contratti sono stati trasformati, se, no, cioè, tutto, no, qual è il portato di questo lavoro, quanto si lavora, sono dei contratti part time, sono dei contratti a tempo indeterminato, questo non si capisce da questi dati. Chi pensa che il meglio di niente sia una cosa positiva leggerà questi dati in modo positivo. Io continuo a leggerli in maniera poco positiva, perché se vedo che i contratti in somministrazione sono superiori alle trasformazioni di apprendisti e di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, penso che ancora siamo davvero indietro rispetto a una visione di stabilizzazione dei, diciamo, dei rapporti di lavoro.